Buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Città del Capo. 451 riparte con una sigla che abbiamo mandato più a lungo, così tanto per godercela. Ovviamente c'erano dei piccoli problemini, per cui chiaramente abbiamo svelato l'arcano, ma ovviamente un saluto da Elisio Scarpa. Purtroppo non c'è il compagno di tante avventure, Max Macchia, che saluto dalle onde, dalle frequenze di Radio Città del Capo. Adesso in questi giorni purtroppo è ammalato, gli è venuto qualcosa che è molto legato, secondo me, ai tempi in cui viviamo, data il martellamento costante mediatico, televisivo e radiofonico di queste prossime elezioni, ma noi abbiamo il divieto di parlarne, dunque non ne parleremo, anche perché a noi direttamente di 451 ci interessano molto poco, se non come analisi di quello che succede nel palazzo, intorno al palazzo. Noi siamo completamente fuori dal palazzo, siamo ai confini dell'impero e dunque siamo ben estranei da queste dinamiche. Ma appunto, dopo i saluti e diciamo le cordialità di rito, andiamo subito nel merito della serata, del tema di questa sera, puntata che abbiamo costruito, abbiamo declinato dentro una sorta di neologismo. L'abbiamo definita elettro-rock. Che cosa sarà mai? Non certamente l'elettro, perché molti potrebbero capire questo. Elettro, ovviamente, direzione musicale e panorama sonoro legato alla musica nera dei primi anni 80, una sorta di sviluppo sonoro antesignano di hip hop e derivazioni varie che sono avvenute poi nella dance sperimentale, meno sperimentale degli anni 80 e poi anche 90, ma in realtà appunto elettro-rock come sorta di sigla collegata a tutte le forme di rock elettronico, dunque di elettronica collegata al rock e del rock collegato all'elettronica. E viaggeremo attraverso vari universi paralleli sonori, anche se chiaramente il tema musicale che maggiormente attraversa questi due linguaggi è stato ed è sicuramente ancora presente dentro l'universo post-rock. Ma noi cercheremo anche di lanciare verso altri collegamenti, altri diciamo territori musicali per declinare un percorso sonoro anomalo e particolare. E già iniziamo subito, perché in realtà apriamo con un grandissimo compositore musicista che ha contrassegnato la musica degli anni 70, 80, anche 90 e successivi anni zero, un grandissimo musicista che però non esce direttamente, diciamo, dalla scena rock, ma addirittura da quella punk e post-punk, fondatore importantissimo di questa band che è stata assolutamente seminale, cioè i Wire, nato nel 1946, e parliamo di Blues Gilbert, che poi ha portato avanti, oltre ai Wire, tutta una serie di percorsi sonori personali già dagli anni 80 fino agli anni zero. E noi abbiamo, diciamo, voluto omaggiare questo grande autore, perché comunque la scena post-punk, diciamo, collegata alla musica elettronica, nei lavori di Blues Gilbert sicuramente emerge in maniera piuttosto originale e sicuramente dal punto di vista sonoro in maniera assolutamente eccellente rispetto anche a tante altre sperimentazioni su questi territori. Abbiamo scelto un disco splendido uscito per la Mute nel 1987, The Shivering Man, un disco splendido che ancora oggi, a distanza ormai di 25 anni, è ancora attualissimo. Scegliendo poi l'ultimo brano, splendido lavoro, Epitaph for Aaron Brennard, un disco dove appunto l'elettronica, il post-punk, la musica industriale, l'avanguardia si uniscono dentro una sorta di caleidoscopio sonoro assolutamente unico. Ce l'andiamo a sentire per aprire appunto in maniera anomala, poi entreremo più dentro il discorso rock ed elettronica attraverso invece altri musicisti e altri progetti, qualcuno molto conosciuto, qualcuno meno, anche delle novità di questi ultimi 2 o 3 anni che sicuramente sono interessanti da andare a ascoltare. Intanto godiamoci Bruce Gilbert da The Shivering Man. Buon ascolto. Thank you. said, gladly drunk and badly painted, long forgotten or celebrated. Siamo rientrati in diretta dopo questo splendido lavoro che oltretutto ha voluto lasciare il segno anche dopo la fine del brano, con questa entrata di rullante elettronico piuttosto marcata. Splendido lavoro, un disco assolutamente da andare a riscoprire a distanza veramente di 25 anni, The Shivering Man, Bruce Gilbert, 1987, splendido lavoro. In apertura, appunto, un po' anomala perché non parliamo di rock ma parliamo di post-punk, connesso anche a molte sonorità connesse all'industriale, ma sarà da apripista per, diciamo, la parte dedicata più squisitamente alla scena rock e l'elettronica. E appunto su questo territorio andiamo a presentare una delle formazioni nuove che si sono affacciate, diciamo, negli anni zero, che lavorano moltissimo tra appunto l'unione e comunque la sovrapposizione, in alcuni casi addirittura una fusione tra il linguaggio rock e il linguaggio elettronico. In particolar modo questa formazione, nata a Chicago tra il 99 e il 2000, formazione che si muove ovviamente su una scena, su un linguaggio molto connesso al post rock, anche se all'interno delle loro sperimentazioni l'aspetto elettronico, in alcuni casi addirittura dimensioni sonore che ricordano dub e addirittura in alcuni momenti reminiscenze funk, e in alcune sperimentazioni addirittura forzature noise molto molto interessanti. Parliamo di The Eternals, formazione che appunto si è costituita a Chicago da quattro personaggi: Damon Locks, Wave Montana, Tim Mulvenna e Dan Fliegel. I primi tre escono proprio una formazione proprio connessa squisitamente al post rock, sempre a Chicago, degli anni 90, il Trench Mouth. Invece Fliegel nasce appunto come grande musicista e fondatore dei Tortoise, formazione assolutamente fondante del post rock degli anni 90. Nell'inizio della nuova decade degli anni zero hanno costituito questa formazione che sicuramente nel disco uscito nel 2007 per la Aesthetics Heavy International riescono proprio a raggiungere la piena maturità, escono e dunque vanno oltre anche la dimensione post rock per abbracciare degli universi sonori assolutamente originali, e qui appunto la commistione tra rock e elettronica riesce assolutamente a realizzare un ottimo risultato. Ce l'andiamo a sentire, dunque, una traccia da Heavy International uscito nel 2007 per l'Aesthetics, The Eternals. Across double yellow line. E siamo rientrati in trasmissione, splendido questo lavoro di The Eternals, ricordiamo ancora la formazione, dal disco del 2007 Heavy International uscito per la Aesthetics. E adesso, sempre nel territorio tra rock elettroniche, tra le novità, dunque tra i gruppi e i progetti nuovi che sono comparsi in questi ultimi anni, andiamo a pescare un'altra formazione di Chicago. Chissà mai come mai Chicago, insomma, la patria del post rock e dunque della commistione più marcata tra rock e elettronica, dunque è normale che si vada a pescare gruppi e formazioni che derivano spesso da Chicago. Si tratta di una formazione che è nata alla fine del 2008, tra il 2008 e il 2009, ha fatto uscire il suo primo album per una grande etichetta come la Thrill Jockey nel 2010, uno splendido lavoro, una formazione che si è denominata Laser Crystal, composta da due musicisti, Michael DeGraff e Nicholas Reed, che hanno costruito appunto questo progetto che lavora proprio sulla commistione tra elettronica e rock, ma oltretutto con anche altre particolarità, forti influenze a livello elettronico, soprattutto per quanto riguarda un certo funk elettronico, ma soprattutto l'elettro proprio, non l'elettro come l'ho voluta declinare stasera come elettronica, ma proprio l'elettro come genere musicale che si è affacciato appunto nei primi anni 80, è un recupero dunque di certe dimensioni sonore assolutamente particolari, tant'è che il Thrill Jockey ha lavorato molto su questo. Chiaramente gli artisti, i due musicisti, hanno come riferimento in particolar modo, l'hanno detto anche in un'intervista recente, una grande formazione seminale nell'ambito del post rock, cioè i Trans-Am, e non solo, ci sono delle curiosità, ad esempio loro si riferiscono moltissimo anche a una certa elettronica legata alla disco, cioè in particolar modo il grande Giorgio Moroder, ma anche formazioni importantissime come i Nine Inch Nails. Dunque i loro riferimenti, come vediamo, sono anche molto disparati, anche molto differenti, ma che riescono appunto all'interno della loro sperimentazione, della loro ricerca musicale, a creare un suono sicuramente interessante, ancora forse non del tutto maturo, ma con degli elementi che fanno ben presagire anche per il futuro. Oltretutto, la cosa anche interessante è che all'interno di questo lavoro elettro rock c'è sicuramente anche una forte connotazione anche sul versante del synth pop, che emerge in diversi brani all'interno del disco appunto di esordio uscito nel 2010. A questo punto ce l'andiamo ad ascoltare, Laser Crystal, un'altra pagina all'interno di questo universo che cerchiamo di esplorare, cioè quello dell'elettro rock. Buon ascolto. We'll be right back. E siamo rientrati in diretta a due brani appunto selezionati dall'album del Laser Crystal, ricordiamo ancora, 2010. E appunto avevamo citato come punti di riferimento per questa nuova formazione recentissima, appena nata, diciamo 2-3 anni di nascita per questa nuova formazione di Chicago, e avevamo appunto indicato che c'era una formazione cardine nell'ambito del post-rock a cui loro si erano rifatti molto a livello di sperimentazioni musicali, e appunto i Trans-Am che andiamo a pescare e a presentare proprio poco dopo il Laser Crystal. Trans-Am, formazione assolutamente fondante di tutta la scena post-rock degli anni 90 di Chicago, insieme a Tortoise, We, La Bradford, Winter Car, sicuramente tra le formazioni principali della scena post-rock americana. Trans-Am che nascono all'inizio degli anni 90 e portano avanti le loro produzioni musicali ricercando sempre all'interno del post-rock commistioni con tutte le diciamo sperimentazioni, i generi che potevano essere collegabili alle loro elaborazioni musicali, e sperimentano moltissimo costruendo degli splendidi album, dal primo album di esordio fino all'ultimo lavoro uscito proprio poco tempo fa. E questa formazione, ricordiamo ancora i membri che sono sicuramente molto importanti nell'ambito dei Trans-Am: Phil Manley, Nathan Mintz, Sebastian Thompson, i tre elementi di questa formazione che nell'anno 2007 fanno uscire questo splendido lavoro, sempre prodotti dalla Thrill Jockey, una delle etichette cardine del post-rock di Chicago. Fa uscire appunto questo splendido lavoro, Sex Change, che riesce assolutamente a stare dentro proprio l'idea che ci è venuta di electro rock, proprio la sintesi perfetta di quell'idea che ci eravamo fatti, è rappresentata perfettamente dai Trans-Am. A questo punto ce l'andiamo ad ascoltare, anche perché purtroppo il tempo è tiranno e ci sono c'è oltre ai Trans-Am anche un altro progetto da far ascoltare, dunque dobbiamo non diciamo tenere troppo il microfono aperto. A questo punto lasciamo aperte invece le onde sonore, la musica, e speriamo anche che muova i corpi oltre che le menti, perché sicuramente questo album ha anche questo splendido effetto in maniera veramente positiva. Sex Change, Trans-Am 2007, buon ascolto. We'll be right back. Siamo rientrati in diretta dopo questo splendido lavoro dei Trans-Am, brano oltretutto con forti carature funk, con splendide variazioni, un ottimo groove, un'ottima costruzione sonora. Splendido lavoro, ve lo consiglio vivamente, Sex Change 2007, Trans-Am, uscito chiaramente per la Thrill Jockey. E adesso ormai con pochi minuti a disposizione prima della messa in onda del radiogiornale di Radio Popolare Network, dunque dobbiamo andare un po' veloci, andiamo a presentare l'ultimo lavoro di questa prima parte, poi ovviamente avvertiamo tutti gli ascoltatori che ripartiremo per la seconda parte intorno all'una meno un quarto, una meno dieci, dopo appunto il GR di Radio Popolare Network. Intanto andiamo a presentare l'ultima formazione di questa prima parte, una delle nuove formazioni nata proprio circa tra il 2011 e il 2012, è una formazione sperimentale nata a Minneapolis, si chiamano Food Pyramid, formazione costituita da tre personaggi, Farstack, Hontona e Weather, formazione che si ispira moltissimo al crowd rock e alle dimensioni sonore legate appunto al crowd rock, in particolare formazione per loro assolutamente fondante sono stati gli Ashra Temple, e dunque un'altra, diciamo, dimensione sonora, quella che andiamo adesso ad ascoltare, di commistione tra rock ed elettronica, e in particolare questo brano dall'album uscito proprio nel 2012 per la Moon Glip Mango Sunrise, questo è il titolo. Abbiamo selezionato una traccia che forse è quella un po' più rumoristica e un po' più scura, un po' meno tra virgolette legata alle dimensioni della musica cosmica, e sicuramente più ruvida, per chiudere la prima parte e poi rientrare ovviamente dopo il GR di Popolare Network. Intanto vi lascio con Food Pyramid, buon ascolto chiaramente.